Tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Un anno fa, 21 dicembre 2010, intorno alle 8 di mattina, moriva Enzo Bearzot. Lo ha ricordato ieri il Consiglio federale della FIGC, di cui Enzo Bearzot aveva fatto parte, con le parole del presidente Abete. Leggo dal comunicato stampa apparso sul sito della FIGC. Stamane, nelle sue comunicazioni, il presidente Abete ha annunciato che in occasione della prossima panchina d'oro a Coverciano verrà consegnato il premio istituito dalla FIGC per ricordare Enzo Bearzot. La commissione, istituita dalla federazione, è formata da tre amici storici di Bearzot: Dino Zoff, Alberto Cerruti e Gigi Garanzini, che sarei io. Ha deciso di assegnare il premio di 25.000 euro alla Onlus ex calciatori del Verona presieduta da Franco Nanni per l'opera di assistenza e di tutela ad ex calciatori gialloblu in difficoltà. Un genere di iniziativa, si legge nella motivazione firmata da Zoff, Cerruti e Garanzini, in perfetta sintonia con la sensibilità umana e sociale dell'indimenticabile commissario tecnico della nazionale, campione del mondo nel 1982 in Spagna. Lo ha ricordato, dicevo, il Consiglio federale della Federazione, lo ha ricordato ieri sera Rai 3, rimandando in onda una puntata di sfide, ma troncandola poi ad un certo punto perché incombeva il TG Notte. Lo ha ricordato sulla Gazzetta dello Sport ieri Alberto Cerruti, con un articolo molto bello. Alberto ha accompagnato la signora Luisa a Paderno d'Adda, dove il cui cimitero è sepolto Bearzot, e racconta, anzi io lascerei raccontare alla signora Luisa, che in primavera quel prato là dietro, quei pini, è pieno di bambini che giocano a pallone, e molti di loro, prima di andare a casa, si fermano davanti alla tomba di mio marito a dire una preghiera. Sapesse com'è bello vederli, Enzo sarà felice. C'è una ciotola con bacche rosse che resiste tutto l'inverno. Ma il fiore che ha commosso la famiglia Bearzot non c'è più. Era bellissimo, l'avevo anche fotografato col telefonino, ha raccontato la signora Luisa. C'era un biglietto con la scritta "uno dei tuoi ragazzi dell'82, senza nome, così non ho mai saputo chi fosse". Lo ha ricordato anche la FIFA alla sua maniera, con una incredibile gaffa di cui lo stesso Alberto Cerruti ci ha informato a corredo del suo articolo sulla Gazzetta. Sentite qua, Sepp Blatter probabilmente non ne sa nulla, ma la figuraccia rimane. Nei giorni scorsi, come ha sempre fatto ogni anno, la FIFA ha spedito una lettera con gli auguri di buon Natale e buon anno, indirizzandola personalmente a Enzo Bearzot nell'abitazione milanese in cui ha vissuto sino all'ultimo giorno. Sul biglietto c'erano le firme di Blatter e del segretario generale Valke. Una gaffa sicuramente clamorosa. Io la vorrei ricordare a mia volta con una stupenda lettera di un ascoltatore che si chiama Roberto Rondinelli e che scrive. Roberto Rondinelli, sì, e che scrive: rivedendo Bearzot in sfide su Rai 3, ad un certo punto improvvisamente mi è ripiombato addosso un passato che forse, come tanti altri, avevo prima nascosto e poi dimenticato in qualche angolo remoto. C'è stato un momento in cui trovavamo normale ammirare la nobiltà d'animo. Era un valore in cui si riconosceva non già una ristretta cerchia di bigotti e eremiti, ma tutta quella che oggi chiamiamo ingiustificatamente società civile. C'è stato un momento in cui, in un qualsiasi discorso, tanto più se in pubblico, una parolaccia non era un rafforzativo, ma un indicatore di povertà d'animo e di linguaggio. C'è stato un momento in cui passare una serata a guardare gente che litiga in televisione non era lo sport nazionale di un popolo tossico di brutture, in cui eravamo ancora forniti del senso di colpa, che però moderava lo strapotere del nostro ego e ci permetteva di considerare che insieme ai nostri esistono anche i diritti degli altri. C'è stato un momento in cui eravamo ancora capaci di vergognarci, in cui non tutto era permutato con 15 minuti di notorietà. Era un momento in cui si considerava che il giusto si anteponesse al conveniente. Rivedere Enzo Bearzot con quella faccia da vecchio saggio che aveva già 30 anni, che spettacolo di uomo. Un'eleganza che non era della buccia ma della polpa e che veniva di lontano. In mezzo a tutto questo crepitio di emozioni si è fatta però anche strada l'amara considerazione quello che allora mi appariva ovvio, oggi mi appare così straordinario di quel passato. Ripeto, firmata Roberto Rondinelli, e insomma è una di quelle, forse varrebbe la pena di fare questo programma che soltanto per ricevere una lettera come questa. Infine, prima di arrivare all'attualità, che evidentemente incombe, Vorrei farvi riascoltare la voce del Vecio proprio da un paio di frammenti di sfide, cominciando da uno, da un frammento che si riferisce al 1980, all'epoca del calcio scommesse, che sia pure in forme completamente diverse, modernizzate e oggi transoceaniche, però è ritornato. Sentiamo il Vecio su quell'atmosfera di allora. Quello del calcio scommesse, intendiamoci, era salita tutta la categoria, sembrava che tutta la categoria fosse disonesta. Noi abbiamo perso un europeo con il pubblico contro, se lei ricorda. Giocavamo in trasferta, non so, in un altro continente, col pubblico che fischiava. E ci hanno messo in condizioni terribili. Sì, in un altro continente, diceva Berzot, e questo mi rimanda alla lettera di prima, perché? Perché nell'80, sì, forse il pubblico aveva fatto di ogni erba un fascio, ma i fischi negli stadi all'Italia, sia durante le partite che durante gli allenamenti, li ricordo bene, perché allora la seguivo da vicino, e, perché c'era evidentemente allora una capacità di indignazione, no? di distinguere le cose di cui quella nazionale quell'anno fu vittima, e fu vittima incolpevole, ma insomma è anche vero che un paio di giocatori che di quella nazionale facevano parte o avevano fatto parte, e nel caso di Paolo Rossi ne riavrebbero fatto parte, erano comunque finiti in quello scandalo. Poi Berzot in quest'altro frammento parla invece di televisione. Sentirei anche questo frammento. Vedo che mi dà più soddisfazione la gente, anche i giovani oggi per la strada, anche se io mi sono automarginato. È possibile che nonostante il rifiuto delle televisioni e mass media ci sia la gente in vacanza per tutto, che mi vuol bene senza magari conoscermi, solo per aver sentito dire, perché non vede da nessuna parte. Allora vuol dire che le televisioni non è che ti portano qualcosa di più, ma possono portarti qualcosa di meno, eh? È vero o no? Qualcosa di meno, per esempio, è successo anche ieri sera, no? Visto che sfide, ad un certo punto, visto che aveva sforato in precedenza, come sempre, il programma di politica, o presunta tale, è partita in ritardo, e poi quando è stata ora di dare l'ora di dare la linea al TG nazionale per poi girarla a quelli regionali, ha pensato bene che di Berzot a quel punto ce n'era abbastanza, no? e tanto valeva passare ad altro. Passiamo ad altro anche a noi, tra poco c'è il primo intervallo, arriveremo ovviamente al campionato, alle due partite giocate ieri e a quelle di stasera. Giusto il tempo di leggere che Alejandro Sabella, che è il CT dell'Argentina, ha confermato che sarà Leo Messi il nuovo capitano dell'Argentina, perché lui è la locomotiva e lui deve tirare il treno, così ha spiegato. E poi le scuse di Antonio Cassano alla Trub di Telenord, che ieri ha insultato e rischiato di aggredire a Genova per un equivoco. La giornalista oggetto delle ire di Cassano è la figlia, si chiama Jessica, della figlia di Enrico Nicolini, un ex calciatore della Sampdoria. Bene, questa mattina ha riferito Enrico Nicolini, mi ha telefonato Cassano, ha detto che si è trattato di un attimo di nervosismo, che non volevo offendere nessuno, e ha porto a mia figlia e al suo collega le sue scuse, sicché la vicenda è chiusa. Torniamo con molti messaggi prevedibili, anche se non così prevedibili nel numero e nell'argomento, poi non, magari non proprio nella sostanza. Lei non può farmi questo, scrivendo Nella La Catania, proprio sotto Natale. Ricordo di Berzot, va ben oltre il pallone, mi commuove sempre, anzi mi commuove troppo, lo ritengo un dono da mettere sotto l'albero. Invece Andrea da Parma la gira diversamente, dice: a proposito, ma dopo così tanto tempo mi dice finalmente cosa pensava il grande Vecio del signor Bea. Ma guardi, se per signor Bea, perché è scritto un po' male, se lei si riferisce a Oliviero Bea e alle sue rivelazioni su Italia-Camerun, credo che si possa immaginare cosa Berzot pensava di Oliviero Bea. Poi, quando se l'ha immaginato, moltiplichi per 100 e arriverà grosso modo abbastanza vicino a quello che il Vecio pensava. Cagliari-Milan, beh, insomma, mi pare che tra Siena e Cagliari ieri sera non ci si sia poi divertiti questo granché, no? Speriamo che le partite, le 8 che restano da giocare stasera, siano qualitativamente migliori. Poi, al di là dei risultati di ieri, al di là del fatto che il Siena meritasse di più, e che il Milan poi col minimo sforzo abbia ottenuto il massimo dei risultati possibili. Ma insomma, diciamo che il bel calcio è un'altra cosa, come è normale che sia, perché giocando ogni tre giorni è un po' difficile fare qualità e fare spettacolo, no? Si riesce, meno male quando si riesce a fare quantità, è già qualcosa. La quantità con un pizzico di qualità, senza esagerare, l'ha fatta Ibrahimovic, no? Una volta di più, con l'assist il pre-assist sul primo gol, perché poi il vero assist è quello di Robinho, e comunque per la scarpa di un difensore del Cagliari prima che per Nocerino, che pure era lì per l'ennesima volta in questa stagione, sicché sentiamo Ibrahimovic. Sto bene bene, squadra sta facendo bene, mi aiutano tanto, ma l'importante è vincere alla fine. Se faccio gol io o un altro, se gioco bene aiuto la squadra, se altri giocano bene è uguale, ma l'importante è vincere. Adesso se va in vacanza per una settimana e poi ritorniamo a giocare ancora più forte. Chi gioca è per me uguale, perché siamo tutti forti, facciamo tutti lo stesso lavoro. Sì, poi c'è qualcuno che lo fa meglio, soprattutto in maniera più efficace, più redditizia, c'è qualcuno invece che lo fa meno, ma insomma a me pare di aver ricavato ieri sera, ripeto, oltre al fatto che si spera sempre da una squadra che comanda la classifica, sia pure temporaneamente, aspettando Udinese e Juve, di vedere qualcosa di più sul piano della qualità. Certamente è messo abbastanza male il Cagliari, mi pare di poter dire, anche per le assenze. È messa male la Fiorentina, perché la Fiorentina per la seconda volta, per il secondo risultato consecutivo, due pareggi, no? Con Atalanta e Siena, ma in ambedue i casi mi pare che, adesso non dico di convocare un tavolo, ma insomma mi pare che l'arbitro, sia sabato scorso che ieri, come dire, abbia sbagliato in più di un'occasione a vantaggio della Fiorentina, e quindi direi che questi 18 punti in classifica, che non sono granché rassicuranti, no, per una squadra come la Fiorentina, potrebbero pure essere di meno sulla base di quello che si è visto in questi ultimi tempi. Arriviamo al match clou di stasera e sentiamo che intenzioni hanno sia Guidolin che Conte, cominciando dall'allenatore dell'Udinese. Una partita molto importante che chiude, diciamo così, l'anno solare. Sappiamo che affrontiamo una squadra molto forte, adesso che abbiamo potuto, ne avevamo sentito parlare, però adesso che ci stiamo concentrando, anche se non con molto tempo, sull'avversario, ci rendiamo conto della forza della Juve, della personalità, delle qualità, del temperamento, e quindi credo che noi avremo il nostro solito profilo. Bisogna fare attenzione, bisogna essere molto bravi come squadra. Ah, su questo non c'è alcun dubbio. L'Udinese giocherà, insomma, secondo almeno quanto è annunciato, con Di Natale unica punta e con Abdi alle sue spalle, poi il centrocampo molto folto a 5 con Asamoah Armero sulla corsia di sinistra a raddoppiare tra loro. Credo che sarà una bella battaglia stasera sulle corsie esterne, perché sono punti di forza sia della Juventus che dell'Udinese. La Juve dovrebbe giocare con Matri a sua volta unica punta e con Pepe leggermente più avanzato, e a sua volta un centrocampo a 5. Sulla carta si annunciano due squadre abbastanza speculari, sulla carta, e poi sul campo vediamo. E sentiamo le intenzioni degli altri bianconeri, che vedremo la maglia di stasera, chissà se rigiocano con quella fantastica maglia rosa, che è poi pure un rosa, secondo me, discretamente vigliacco, ma immagino di sì, giocando in casa dell'Udinese. Sentiamo Conte. Ormai l'Udinese non è più una, secondo me, una rivelazione, perché dopo il campionato che ha fatto l'anno scorso, dove a 3-4 giornate alla fine si è trovato insieme al Napoli a contendere lo scudetto al Milan, non penso più sia una rivelazione. L'Udinese l'anno scorso è arrivata quarta, noi siamo arrivati settimi, e due anni siamo arrivati settimi. La prima cosa che mi avete chiesto quest'anno è lo scudetto. All'Udinese non è la prima domanda che viene fatta a Guidolin, lo scudetto. Quindi c'è tutto il tempo di costruire, c'è tutto il tempo di valutare, c'è tutto il tempo di fare delle valutazioni serene, di far crescere dei calciatori. Noi questo tempo non l'abbiamo, perché non c'è pazienza. tutto vero quello che dice Conte, che non si stanca di ricordare, no? Tornando al punto di partenza della sua gestione, ma è altrettanto vero però che dopo 15 giornate non ci si può più nascondere, e non ci si nasconderebbe nemmeno se ci si chiamasse in maniera diversa. Se poi ti chiami Juventus, ha maggior ragione. Il fatto di giocare coperti diventa un po' difficile. Coperti nel senso di non mettere troppo il naso fuori. Renzo Rieti, buongiorno. Buonasera, dottor Garanzini. Dica. Vuoi tornare sul fuorigioco, è possibile? Il fuorigioco? Mi sbagliano talmente tanti i segnalini che, insomma, se la cambiassimo questa regola, secondo lei? Io sono intanto sono in disaccordo con lei, ne sbagliano pochissimi di fuorigioco i guardaline. Io trovo che i guardalini italiani siano i più bravi d'Europa. Andiamo a vedere dall'inizio dell'anno, hanno sbagliato i parecchi, qualche gol annullato, qualche gol, insomma. Ma se il fuorigioco lo facessimo solo nell'area di rigore, sarebbe meglio? Sì, per i tornei notturni sì. Per il calcio del A7, il calcio A9, il calcio dei tornei giovanili, e ne ho fatti tanti anch'io, sì. Io credo che se limitassimo il fuorigioco all'area di rigore, rivedremmo i centravanti vecchia maniera, anche più che quarantenni magari, no? Con le mani sui fianchi, stazionare nella lunetta dell'area di rigore a rifiatare, sperando che arrivi la palla buona da cacciare dentro, ma insomma più o meno come nei tornei a 7 o nei tornei a 9. Io non sarei tanto d'accordo, ma soprattutto non sono d'accordo che gli assistenti italiani, dice, ne hanno sbagliati parecchi, e vorrei vedere che non avessero sbagliati in 15 giornate, 10 partite a giornata, sono 150 partite e dice parecchi, ne hanno sbagliati pochissimi in rapporto a quanti sono chiamati a giudicarne. Ogni partita. Maurizio, provincia di Bergamo, buongiorno. Sì, buongiorno. Purtroppo devo toccare il testo dolente dell'Atalanta. No, mi volevo porre alcune domande. Riguardo sempre il discorso di queste famose di Cristiano Ronaldo, sicuramente colpevole, ormai non si sta a parlarne. Però mi chiedevo, domanda, per combinare una partita. Ma ascolti quanti... una cosa, Cristiano Doni ormai è colpevole, cioè sono passate 24 ore, cioè dopo mesi in cui Cristiano Doni era una vittima, no? Una vittima del sistema, era vittima di una congiura, cioè andava canonizzato, eccetera, adesso 24 ore. Io mi chiamo Maurizio Schaini, parlo per conto di Maurizio Schaini. No, questo è anche vero. Allora, io mi sono letto 330 pagine ieri, più o meno, il personaggio purtroppo non può... È indifendibile. Non può salvarsi, però quella che la mia domanda era, ma per combinare una partita quanti giocatori da una parte e dall'altra ci devono mettere d'accordo? Uno. Allora scusi, questa prima domanda la giriamo agli Zamperini, attenzione alle vocali, ripeto, agli Zamperini, la giriamo a questi, ai Doni, a questi che sono pratici. Io non ne ho la minima idea perché non ho mai combinato una partita in vita mia. Quindi la prima domanda non sono in grado di rispondere, la seconda. La seconda, proprio ho in mente la partita Atalanta-Piacenza. Cioè l'Atalanta aveva 12 o 13 punti di vantaggio sulla terza, giocava in casa contro il Piacenza, vince 3-0, ma a memoria, cioè riceve un rigore sicuramente che non c'è, fischiato dall'arbitro a favore. Quindi a questo punto dovremmo anche coinvolgere l'arbitro, secondo me, perché ce l'ho ben presente la partita. Forse addirittura due rigori, ma uno sicuramente è non inesistente, che mi dicevo, ma perché da ex tifoso e sportivo tarantino, ma perché gli danno i rigori d'Atalanta quando non ci sono? Quindi c'è qualcosa di molto dubbio. La terza domanda si riferisce a quello che è emerso stamattina della famosa telefonata, dell'uso della scheda telefonica clonata, non di Doni verso una società dove risulterebbe l'amministratore delegato socio dell'Atalanta, dirigente dell'Atalanta. Esatto, dirigente, ecco, quella si viene a scoprire che forse ha chiamato il figlio, che è un amico intimo di Cristiano Doni, dico a questo punto, la società che cosa deve fare a questo punto? Deve essere uninominale, deve esserci solo un presidente e nessun altro per essere sicuri che la società non deve avere una responsabilità oggettiva? Non so, Maurizio, questa può essere una discreta domanda, però guardi, dato che non io sinceramente sono un... Faccio fatica a rispondere a domande di questo genere, anche alla seconda, perché bisogna avere sott'occhio davvero i filmati, queste cose. Io le rispondo con le parole di un ascoltatore che è Paolo da Prato, che dice, cioè quel signore che sarebbe lei, caro Maurizio, si è letto 330 pagine sul caso Doni, ma una bella mostra d'arte no, si domanda Paolo da Prato. La lascerei con questa interrogativa e andrei a sentire come funzionano oggi i mercati. Non ho capito perché Vittorio Feltri, scrive Roberto da Vicenza, ha dichiarato di continuare a stimare e a restare amico di Doni anche se sarà dichiarato colpevole. Che ne pensa lei? Non ne penso. Danilo Castagnoli da Carpi dice, guarda, fuori gioco lo rimetterei come era prima, cioè quando un qualsiasi attaccante oltre ai difensori faceva sempre fuori gioco. Sì, è una visione un po' arcaica, certo semplificherebbe il compito di arbitri e soprattutto di assistenti. Faccia pressioni, signor Garanzini, su Andrea Agnelli e su Prandelli, perché il milite ignoto del Gubbio merita la Juve, la nazionale, a dirà il suo valore tecnico. Adesso magari non esageriamo, ma rimane il fatto che il gesto di Simone Farina, mi pare che si chiami, io lo chiamo il milite ignoto, pazienza per nome e cognome, è il milite ignoto, è uno che ha osato ribellarsi a questo clima di omertà che io credo, anzi ne sono certo, riguarda anche grandi calciatori, grandi professionisti che non insomma, come dire, si fanno gli affari loro, fanno la vita tranquilla, non dico che si comportino scorrettamente, ma non sono così pronti, non hanno la sensibilità sociale e civile, secondo me, oltre che etica, di denunciare tutto quello che avvertono, tutto quello che ronza intorno, tutto quello che potrebbe essere potenzialmente sporco. Invece in questo momento credo che questo sarebbe il comportamento da tenere, quello proprio che ha tenuto i milite ignoti. In ogni caso, visto che l'ultimo intervento telefonico aveva chiamato in causa questa, dice, la famosa partita, per la verità ne ricordo le più famose, ma insomma nella fattispecie quell'Atalanta Piacenza da cui molto è partito, allora potremmo risentire, così giusto a scopo di documentazione, risentire come Doni reagì ai microfoni dopo la partita, a qualche domanda di troppo dei cronisti che evidentemente avevano, se non sentito puzza di bruciato, avevano in ogni caso colto qualche momento, qualche fase della partita non proprio normale. Sentiamo quel Doni. Stiamo per tornare alla partita, i due falli da rigore, come li hai visti dal campo? Probabilmente in Serie A tutti e due non ve li avrebbero dati. Come faccio a rispondere a una cosa del genere? Beh, siamo seri. Uno ha preso la palla di mano così mentre stavo... Come fai a dire in Serie A? Forse con la Juve di Calciopoli. Come fate a dire cose così, dai? Siamo seri. È saltata una palla che stavo colpendo di testa dal dischetto di rigore a botta sicura. Poi magari lo sbagliavo. E ha preso con la mano così e come fai a dire che non è rigore? Dai, cavolo, facciamo. Perché? Cioè, dobbiamo sempre creare polemiche anche quando non ce ne sono. Dai, passa la voglia veramente di parlare. Scusate. È passata la voglia di parlare, può succedere. Dunque, 800 24 00 24, vi ricordo il numero per intervenire in diretta. Adesso andrei alla vigilia di Inter-Lecce, perché comunque l'Inter è arrivata a quinto posto, non è che fosse certamente l'obiettivo di partenza, però negli ultimi tempi, sacrificando del tutto l'estetica e badando esclusivamente al sodo, comunque ha recuperato qualche posizione ed è chiaro che giocando in casa contro il Lecce può ulteriormente provare a riportarsi sotto con l'evidente obiettivo di un potenziale terzo posto. Non credo potrà ancora insidiare Juventus e Milan, ma insomma Lazio-Udinese è giusto perlomeno provarci. Sentiamo Ranieri. Io credo che i tifosi siano contenti di come ci stiamo comportando. Gli abbiamo promesso sudore, sangue, sacrificio, e vedono che magari non giochiamo bene in alcune partite, ma questo è dovuto anche a delle nostre difficoltà strutturali, ma è dovuto anche agli avversari, a momenti, però abbiamo fatto anche alcune belle partite, per cui io credo che il tifoso ci sia particolarmente vicino. È logico che abbiamo perso troppe partite in casa e dobbiamo cambiare la tendenza, dobbiamo veramente ritornare una squadra imbattibile in casa e riuscire a mantenere il trend che stiamo tenendo fuori casa. L'Inter dovrebbe giocare con Milito e Pazzini come coppia d'attacco e con Coutinho alle loro spalle, comunque in una linea di centrocampo che prevede anche Zanetti, Cambiasso e Thiago Motta. Dall'altra parte sono in gran forma, lo si è visto nella sfortunatissima partita di Parma, sono in gran forma Muriel e Di Michele, e quindi per la difesa dell'Inter, che dovrebbe avere Samuel e Lucio centrali, potrebbe esserci qualche insidia magari non proprio prevista. Massimo ha chiamato dalla provincia di Massa Carrara, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini. Senta, non è tanto che sto ascoltando la trasmissione, però volevo far notare una cosa. Su tutti i giornali sportivi stamattina dello scandalo del calcio se ne parlava un trafiletto in fondo alla pagina. Quando lo sport campa sulla chiarezza, penso. Volevo sapere cosa ne pensava lei. No, io non so che giornale legga lei. Ho letto, mi pare che ci siano 3 pagine sulla Gazzetta dello Sport, 3 pagine di testo oltre a un congruo richiamo in copertina. Ho letto 2 pagine sulla Stampa, ho letto 2 pagine su Repubblica, se non 3, ho letto 2 o 3 pagine su Corriere della Sera. So, cambi testate, Massimo, diretta a me, no? Perché sennò non è difficile capirci. Alessandro Milano, buongiorno. Buongiorno, salve, io sono un tifoso della Juve. Sì. Sentendo le parole di Conte, io proprio condivido pienamente la sua politica, in quanto secondo me lo scudetto è del Milan, cioè non la Juve non ha la forza per vincere lo scudetto, il Milan è troppo forte. La cosa più però positiva è che secondo me ormai almeno di un capito confondiamo, andiamo almeno in Europa League, dovremmo stare molto attenti a cercare di staccare un po' la Lazio, in modo da a questo punto, avendo quel bel vantaggio sull'Inter, di riuscire ad andare in Champions League. Ecco, questo penso che ormai sia quasi una portata molto valida per la Juve, ma lo scudetto non ci credo, ecco, secondo me è del Milan, ma adesso si è messo lì il Milan, è difficile tirarlo via, ecco. Milan, condivido il fatto che la valutazione che il Milan sia superiore alla Juventus per organico non credo ci siano molti dubbi, però non è che vince sempre la squadra potenzialmente più forte, se tu sei una buona alternativa, se li tieni sulla frusta fino alla fine, se sai di poter contare sul riposo settimanale, no? A differenza degli impegni altrui, puoi sperare che quegli altri vadano più avanti possibile in Coppa dei Campioni, che vuol dire comunque, al di là della stanchezza, vuol dire logorio, vuol dire avere la testa altrove, insomma, e quindi perché no? Io non capisco perché no. Fabio scrive: come si può fare per evitare lo spettacolo vergognoso di spinta e strattone tra i giocatori in caso dei calci d'angolo, in attesa dei calci d'angolo e di punizioni? Ci vuole maggior severità, ci vuole maggior severità arbitrale, bisogna cominciare a dare dei rigori invece di fare quel fischio che interrompe la battuta, avete presente, no? Mi pare ormai accade almeno 3 volte a partita, sta per partire la traiettoria della punizione o del calcio d'angolo, ce ne sono due copie almeno, se non di più, che si stanno strattonando in maniera davvero invereconda, e l'arbitro fischia e lui dice: oh, finalmente ha dato un rigore, oppure non so, ammonisce quello o caccia quell'altro, che sia l'attaccante o il difensore non è importante, perché non se ne può più di questi spettacoli. No, invece l'arbitro va lì e fa il fervorino, no? Finisce il fervorino, questi ricominciano esattamente come prima, e poi a seconda della statura arbitrale si fischia o il fallo di confusione o il fallo in attacco o la cosa, oppure addirittura tutto resta impunito, ma un calcio di rigore in quelle situazioni mai. Massimo Modena, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. La chiamavo riguardo il ricordo che ha fatto prima di Enzo Berzot. Io ricordo che quando l'Italia nel 82 vinse il mondiale, avevo 15 anni, me lo sono vissuto tutto, goduto tutto quanto, e la telefonata è riguardo la differenza che ancora adesso provo, clamorosa, fra la soddisfazione che c'è stata in quella vittoria è quella ad esempio invece che abbiamo fatto in Germania. Cioè allora c'era una nazionale che non godeva del minimo credito, poi se lo ricorderai benissimo, certo, presa da mille polemiche, e lui ha difeso i suoi giocatori a dispetto di tutto e di tutti, e oltretutto molti si dimenticano che quella nazionale ha battuto forse ha battuto tutte le squadre più forti del periodo direttamente in scontri diretti, e quelle squadre avevano dei campioni del tipo Rummenig, Platini, Maradona, Zico, secondo me molti se lo sono scordato. Sì, sì, e lei ha detto solo alcuni dei principali, perché ce n'erano molti di più. Insomma, la prima vittoria dell'82, quella che diede la svolta, fu contro l'Argentina. L'Argentina era campione uscente in quel momento, perché ha vinto nel 78, era più forte che nel 78, perché comunque aveva aggiunto un certo Maradona nel 82, aveva 22 anni, diciamo che era già discreto come giocatore, e quindi quella fu la prima grande impresa. Poi ci fu quella storica, ci fu l'Everest col Brasile, e poi si andò un po' in discesa, anche se la Polonia non era esattamente da buttare via, mentre la Germania invece no. In finale la Germania era stanca, era un po' logora, ha giocato dei supplementari pazzeschi, rubandoli tra l'altro alla Francia nella semifinale di Siviglia, un giorno dopo la semifinale dell'Italia, e quindi la finale non fu davvero un ostacolo molto alto, ma era pur sempre una finale, di questo va tenuto conto. Facciamo in tempo a sentire, sì, magari un po' rapidamente, Bruno da Rimini, buongiorno. Salve, buongiorno dottor Garantini. Dica. Ascolti, volevo parlare un attimino della Juventus, sia sotto l'aspetto societario che sotto l'aspetto di campo. Sotto l'aspetto societario, per il ricorso all'indennizzo che ha chiesto, mi sembra che il suo amministratore delegato e il direttore generale siano condannati, giusto? Il suo segretario? No, il direttore generale e Moggi sono stati condannati. Uno fatto il rito abbreviato e l'altro a Napoli. Sì, era l'amministratore delegato. Era l'amministratore delegato, perfetto, su questo. Quindi una sentenza c'è già, giusto? Sì, io quando comincio a sentire giusto do la linea al traffico, poi se mai ricominciamo dopo. Allora, torniamo da questo ascoltatore di Rimini. Bruno, non mi chieda se è giusto, perché non so se è giusto, dica quello che... Ok, no, questo qui, niente, allora soprassediamo su questo. Io ho notato che nelle partite fin qui giocate la Juventus ha una condizione fisica straripante rispetto a tutte le altre squadre, nel senso che vedo che arriva sempre prima sul pallone e fa nella sua prestanza fisica praticamente il gioco di tutta la squadra. Pensa che questa condizione riesca a mantenerla per tutto l'anno? No, per tutto l'anno così brillante non credo. Rispetto a tutte le altre concorrenti, parlo delle concorrenti di vertice, e cioè nella fattispecie Milan, Udinese, Lazio, ma anche Inter al momento e anche Napoli, ha questo indubbio vantaggio, l'abbiamo detto fino alla noia, di non avere l'impegno infrasettimanale. Avrà quello di Coppa Italia, ma insomma non quello europeo, e quindi questo certamente le consentirà di restare atleticamente più brillante rispetto alle rivali, di avere qualcosa in più da spendere, se vogliamo metterla così, ma non penso comunque che nonostante questo la Juve possa continuare a correre a questa maniera fino a primavera, perché sta davvero correndo molto, e in genere quando si corre così tanto i primi caldi, quindi stiamo parlando di aprile, che poi è la fase decisiva del campionato, i primi caldi possono essere accusati, e possono essere accusati anche in maniera torta. Però siamo a fine dicembre, fa un freddo cane, e quindi ne parliamo semmai allora. Gianni è in linea da Parma, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Sì, spenga la radio per cortesia, sennò c'è un effetto. Volevo solo dire che avete parlato del mio diritto ignoto, ovviamente sotto metafora. Penso, sì, certo, perché ha nome e cognome, quindi più metafora di così è evidente. Relativamente a quel personaggio che ha denunciato, diciamo, l'imbrogli. Sì. Ecco, comunque questa gente qua è gente che ha rubato. Perché poi dopo ci sono anche delle complicazioni sulla classifica economica non indifferenti. Io vorrei sapere una cosa, una mia curiosità. Se adesso si faranno i processi e verranno dichiarati colpevoli, diciamo, cosa facciamo? Verranno rifatte le classifiche della Serie A? Verranno rimborsati i soldi, eccetera? O finirà tutto all'italiana? All'italiana, io non so se è all'italiana o com'è, non ne ho la minima idea. Cioè ci sono tanti liberi docenti in Italia che sostengono che, a cominciare da Della Valle, l'ultimo è stato, no, a cominciare da altri, ma l'ultimo è stato Della Valle, no? Secondo cui Guido Rossi e gli inquirenti del 2006 sbagliarono tutto. No, io mi permetto solo di ricordare in che situazione di emergenza era allora il calcio italiano, perché se non ci fosse stata la fretta, che fatalmente un minimo di sommarietà la comporta sempre, è inevitabile, il calcio italiano, seguendo i tempi della giustizia ordinaria, sarebbe tuttora fermo, no? E sono passati 6 anni, ma basta vedere cosa sta succedendo e qual è ancora il livello di scontro oggi, tutto sarebbe ancora al punto di prima. Non so come si possa risolvere quest'altra questione se non con delle indagini, delle inchieste e i magistrati sportivi, nella fattispecie, a cominciare da Palazzi, nella fattispecie, che vedranno un po' di trarre delle conclusioni e di capire quali di queste persone innanzitutto e poi di queste società hanno occupato, grazie a cose illegali, hanno occupato una posizione di classifica che non meritavano. E fino a che punto sarà possibile procedere con la revisione? Insomma. No, no. Angelo Bari, buongiorno. Buongiorno, buongiorno dottor Garanzini. Volevo innanzitutto fare dei complimenti per questo spazio che dedica a noi, diciamo, amanti del calcio. Sì. Il mio intervento era un intervento sulla Juventus, anche non essendo tifoso, ma puramente uno sportivo. Ho avuto modo di conoscere Antonio Conte qui a Bari. Noi abbiamo fatto una bellissima cavalcata con lui, che poi ci ha portato a trionfare in Serie B e a salire l'anno successivo in Serie A. Credo che, non voglio dare percentuali, però un buon 70-80% del merito vada attribuito a lui, e la restante parte a quello che ha fatto la Juventus, che è lo stadio. Non so se lei è d'accordo con me. Faccio un po' fatica, Angelo, perché... Quando un allenatore ha meriti straordinari, strepitosi, pazzeschi, arriva al 20, grosso modo, no? Nei risultati di una società, nella brillantezza del calcio, in tutto, vale anche per Guardiola. Quindi sentir parlare del 70-80% di meriti per qualsiasi allenatore, si chiami Conte, come dice lei, o si chiami per l'appunto Guardiola, o si chiami... chi lei meglio crede, no, io proprio non ci posso stare, non di mezzo, divido per quattro, proprio già stando un pochino larghi. Torniamo, facciamo un passetto indietro, perché siamo già in ritardo per la rubrica di Nicola Filippone e per questo mercoledì 21 dicembre, che certamente non solo è il primo anniversario del vecchio di Enzo Bearzot, ma è il 43esimo anniversario della morte di Vittorio Pozzo, il che significa che il 21 di dicembre è una data a cui Marcello Lippi, faccio per dire, farà molto bene, no, a prestare attenzione, perché 2 commissari tecnici mondiali su 3 sono nati in questo giorno, che pure è così bello, perché è il giorno in cui finalmente tornano ad allungarsi le giornate. Nicola Filippone. Sembra ieri. 21 dicembre 1983. Siviglia, stadio Villamarín, casa del Betis. La nazionale spagnola si gioca la qualificazione alla fase finale degli europei sfidando Malta. Per staccare il biglietto, le Furie Rosse hanno bisogno di vincere con almeno 11 gol di scarto, altrimenti a giugno in Francia ci andrà l'Olanda. La situazione si complica al 24esimo, quando Malta pareggia l'iniziale vantaggio di Santillana, che però 2 minuti dopo va di nuovo a segno. Il primo tempo si chiude sul 3-1, troppo poco per sperare davvero, ma nella ripresa la Spagna si scatena e centra l'obiettivo. Finisce 12-1, un record nella storia delle qualificazioni agli europei. Il trionfo della Spagna, che approderà fino alla finale della competizione perdendo contro la Francia, desta però qualche sospetto a livello internazionale, tanto che spesso, nella casistica dei biscotti accertati o presunti, si cita il 12-1 di Siviglia. E te credo. Dunque, se al 24esimo minuto Malta pareggia e sono 1-1, significa, e la partita finisce 12-1, significa che 90-24, in 66 minuti la Spagna segna 11 gol. 66 diviso 11 fa per l'appunto 6, vuol dire una media, è vero che gli altri erano Malta, ma una media di, insomma, di un gol ogni 6 minuti, qualche piccolo sospetto lo farebbe venire persino a Cristiano Doni, secondo me. Fabio ha chiamato da Arezzo, buongiorno. Buongiorno, complimenti per le trasmissioni. Dica. Senta, sono un tifoso delle nazionali italiane, soprattutto di calcio. E vorrei fare una domanda sul calcio a scommesse. Il fisco potrà intervenire sulle cifre che girano? Fabio, me l'auguro, non lo so, non ne ho la più pallida idea. Magari intervenisse con degli accertamenti come si deve, insomma. Questa, l'ho già detto ieri, questa è una vicenda di una complessità estrema, perché il calcio scommesse dell'80 era nato per due balordi romani, uno faceva il ristoratore, l'altro faceva il fruttarolo, ed era una cosa dei noantri, no? Paragonata a questa. Qui viaggiano le valigette piene di denaro su e giù da Singapore, qui intortano partite di B, qui leggevo stamane in un bel servizio che ero sulla Stampa, o ieri forse, perché adesso comincio a confonderli, questi agiscono soprattutto sul numero di gol da segnare, agiscono nelle categorie inferiori, ma nelle categorie inferiori le partite marce sono tante, ma sono proprio tante, perché loro non giocano tanto sul risultato finale, quanto sul numero di gol che si segna, e quindi nel dubbio le difese sono un po' allegre magari in partenza, e quando le squadre arrivano 1-1, dopo una mezz'oretta, dopo poi possono giocare anche lealmente pulito, ma nel frattempo però chi già ha puntato sul fatto che segnasse l'una e l'altra squadra, che è un'altra delle scommesse possibili, già si è portato avanti, capisci? Comunque già ha incassato. Io credo che sarà difficile da tutti i punti di vista venire a capo di questo, che d'altra parte Platini sta dicendo da anni che è il vero flagello del nostro tempo. Temo a proposito di tempo che non ci sia più spazio. C'è Giorgio che ha chiamato da Prato e che sarà, lo dico alla grande rosa, al centralino, sarà il nostro primo ospite, se lo vorrà ancora, domani ovviamente puntata di post campionato, quindi sarà un giovedì ma è come se fosse un lunedì. Marco scrive da Reggio Emilia: se l'80% del merito di Conte e il 20% dello stadio, caro Gigi, in pratica avremmo potuto giocare anche io e lei e saremmo primi in classifica. Mi sembra una fantastica sintesi, di cui ringrazio il reggiano Marco. Grazie a tutti, grazie a Roberto Scaltritti in regia, a Franco Piantanida in redazione. L'appuntamento per l'appunto è al post campionato di domani.